Non ho mai detto bugie, fra, mi hanno insegnato così. Mai fatto le strategie, fra, mi hanno insegnato così. Seguo soltanto il mio cuore, anche se porta un errore. Non devo dare più conto a nessuno, sono un solista, alzo il tenore. Beccami in strada, lo sanno tutti com'è che va, che non me la so mai tirata. Anche se a volte semplicemente non è giornata. Torno e mi sa troppo che era una volta, prima del rap e la svolta, prima di fare le foto con gente che neanche mi ascolta. No, non è per fare il fico, bro. Credi pure a ciò che dicono, il flow è magico, sono un idolo. No, non cambio se cambia il contesto. Troppi anni che lavoro a questo. Tiro dritto un albero maestro. Tanti giorni brutti colgo i frutti adesso. No, frate, non gioco a Fortnite, la tempesta non mi tocca. Io sono più in questo gioco del rap e me roba che scotta. Fra, sono l'arma che sciotta, comici vari. Io con gli amici che stanno in suo posto di merda, certi stanno ai domiciliari. Voi dentro casa che gira dei pollici ignari. Se mi fermo e penso a sto mondo, saltano i nervi. No, non sono freddo, mi impongo di trattenermi. Ora splendo e divento grande come i miei miti. Non vedo più nemici. Frate, prendi quanto serve, cash, giallo, verde. Sai che faccio questa merda 24/7. Eravamo niente, fermi da consente. Facevamo questa merda 24/7. 24/7. Ma non parlo di veneno e di lamette. Sono grande, non faccio il giovane Werther. Troppa merda nel teschio, non voglio finire presto. Finirà fresco con i pozzi e le manette. Con le bestie dentro quelle camionette. A fa culo la droga, solo cannette. Frate, sto preso bene, parla, non mi frega niente, di niente. Questa merda vera non serve che fingo. Posso fare mille rime, pure solo un jingle. Con in tasca mille lire, frate, ero già fico. Per me rap è la partenza, non il punto d'arrivo. Voglio solo migliorarmi, io non mi rassegno. Passo un'altra notte sveglio a pensare solo a come posso dirlo meglio. Dire a lei che è la più bella con un ritornello. Non ho fatto mai il passo più lungo della gamba, sai, ma adesso raggiungo tutto quanto quello che ti avevo detto. Voglio dare soldi a tutti da riempirci un letto. Vorrei prendere una pausa, ma sta vita non si pausa. Devo continuare fino a quando ne ho la nausea. La gente si gasa. Frate, prendi quanto serve, cash, giallo, verde. Sai che faccio questa merda 24.